9 in punto, la versione di Oscar. Oh, eccoci puntualmente con questa specie di cantilena ipnotica che spero abbia fatto tornare molti di voi all'ascolto dei Doors, ma che voi sapete è in realtà da parte mia l'insistenza solo della diffusione di una consapevolezza. Io prendo The End dei Doors, che vi propongo a inizio trasmissione e a fine trasmissione da molti mesi, tutti i giorni, come un segnale che ci deve indurre la consapevolezza. Io intendo tenerla fino a che l'allarme sulla tenuta dell'euro resta un allarme molto fondato e molto pressante, e come vedete dagli spread questi giorni siamo ancora lì. Oggi è un giorno importante, insomma, di solito i giorni importanti si sprecano e poi è solo ex post che si capiscono quali siano quelli importanti davvero o meno, però oggi, lo sapete, è annunciato in tutti i telegiornali, giornali radio quotidiani. Se ancora avete la buona abitudine di sfogliarne e comprarne uno, pochissimi tra i giovani studenti che incontro, in cui il presidente del Consiglio italiano, il professor Mario Monti, incontra la cancelliera Angela Merkel. È un bilaterale non di facciata, ma è di sostanza. Si dovrebbe andare al nocciolo delle faccende. Il nocciolo delle faccende sono che il compromesso dell'8 dicembre scorso, agli occhi dei mercati, non dà le risposte capaci di sconfiggere i fondati sospetti del mercato che l'euro a breve non regga, perché gli andamenti sono troppo divergenti, perché i sistemi bancari restano troppo esposti, perché i soldi della BCE dati copiosamente, come è giusto, alle banche restano alla BCE e non vanno a imprese e famiglie, perché il deterioramento dell'economia reale quindi è profondo, e perché la gara quindi a fare rigore nei bilanci pubblici rischia sempre di restare indietro rispetto al fatto che il PIL si contrae, perché le ragioni sono tante. Auguriamoci che oggi il presidente del Consiglio Monti vada al nocciolo della questione con Angela Merkel. Per gli interessati, io ho scritto un editoriale, sto sul Messaggero, ho messo sulla rassegna stampa, in cui in quattro punti sintetizzo che cosa secondo me il presidente del Consiglio italiano, forte della sua ritrovata credibilità, dovrebbe fuori dai denti porre sul tavolo in nome degli interessi non dell'Italia ma della tenuta dell'euro al cancelliere tedesco. Ma non è di questo che parliamo oggi, anche perché con le anticipazioni si va solo avanti per sfere di cristallo. Al contrario, il tema che ho deciso di trattare non è nemmeno la soddisfazione di tanta parte della vecchia Italia politica per le vicende del sottosegretario malinconico. Oh, come godono i partiti e i loro leader al vedere il sottosegretario malinconico cacciato dal governo perché pagato dalla cricca. Oh, come godono alcuni nelle fotografie del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ex governatore, oggi presidente della BCE, che guida senza cintura e con il telefonino. Giustamente sono dell'idea che si debba usare lo stesso metro usato che in passato. Mi fa sorridere però il godimento della vecchia Italia politica, perché è il classico godimento che dice siamo tutti uguali, ognuno alla rogna, ed è esattamente la cosa che a me non piace di questo paese. Invece oggi ci occupiamo di uno dei punti decisivi per un paese secondo me moderno, e per moderno intendo che dovrebbe abituarsi a articolare i propri dibattiti non secondo la logica curva sud, curva nord, che dai tempi di ogni arena inficia e intossica il dibattito pubblico. Pensate che tutta la storiografia revisionista oligarchica dell'Atene del V secolo era tutta fondata sul fatto che quello che Tucidide descrive nell'epitafio di Pericle come il trionfo della democrazia con Pericle in realtà era nient'altro che una ridicola messa in scena di cosa dovrebbe essere la democrazia, perché Pericle maestro per 30 anni di ammaestramento dell'assemblea dei 30.000 ateniesi che avevano diritto, poi c'erano gli schiavi che lavoravano per loro ma avevano pieno diritto politico, non era nient'altro che un incantatore di serpenti. Ecco, il problema è che per non farsi incantare come un serpente bisognerebbe avere una minima cognizione dei fatti. fatti, e i fatti per conoscerli hanno bisogno di numeri, non hanno bisogno di opinioni intossicate. Le opinioni poi uno se le dovrebbe far dopo. Allora, questo metro, che è il metro fondamentale per capire la realtà, per descriverla con un linguaggio quantitativo che dovrebbe essere auspicabilmente condiviso, non come in Italia dove ogni volta che parli di numeri qualcun altro dice ma i tuoi numeri sono falsi e ognuno quindi si rivendica i suoi, sono tutti relativisti in Italia. Ecco, invece questo criterio di avere i fatti descritti con numeri condivisi e affidabili, e dall'altra poi le opinioni che vengono dopo, ecco, questo criterio dovrebbe essere rimesso al centro di un paese moderno, e a questo criterio è dedicato il libro che mi ha dato lo spunto per invitare oggi i suoi due autori, perché è un libro di una centoquarantina di paginette che esce nei Saggi Tascabili La Terza. Il suo prima io ho citato il sottotitolo, perché il sottotitolo dà chiaramente l'idea di cosa si parla. Il sottotitolo è Il senso comune alla prova dei numeri, e il titolo invece di questo libro è Cose da non credere. Perché questo titolo è poi spiegato dal sottotitolo? Perché i due autori, che adesso vado a presentarvi, la trasmissione oggi la fanno loro, sostengono ipermotivatamente, secondo me, che il nostro paese, un po' come tutti gli altri, ma più degli altri in realtà, vedendo bene le cose, ha una netta distinzione tra la percezione delle cose e il cosiddetto senso comune, che invece come quelle cose vengono percepite, come vengono giudicate. Il senso comune, cioè la percezione delle cose e le opinioni che poi alimenta, finiscono per essere molto spesso distinte dal buon senso, cioè dalle conclusioni e dalle conseguenze a cui si dovrebbe arrivare conosciuti davvero i fenomeni con cui abbiamo alle prese. E la bellezza di questo testo, che è un testo scritto da naturalmente esperti e dotti, ma che è invece scritto con la mano molto guizzante, divulgativa, è di mettere al centro della riflessione, in una serie di capitoletti successivi, i punti di fondo del problema italiano, cioè la demografia, la famiglia, i figli e i giovani, il sesso, com'è cambiato e com'è il sesso nelle famiglie italiane, e poi il mattone, ma è così giusto che gli italiani investano, e perché gli italiani investono così tanto il loro reddito disponibile nel mattone, e poi le pensioni, ma è proprio vero che ci vogliono uccidere tutti mandandoci in pensione così più anziani, come avviene con la riforma che è appena stata approvata da parte proposta dal ministro Fornero. E poi gli immigrati, tema delicatissimo della percezione di un'identità nazionale, come mai questi immigrati ci vogliono tutti di difendere, gli immigrati, quando ci rubano il lavoro nella globalizzazione e così via. Ecco, su ciascuno di questi punti i due autori squadernano da una parte i numeri che corrispondono all'interpretazione dei fatti dell'evoluzione della società italiana, e dall'altra quello che invece gli italiani poi pensano nei sondaggi, nelle opinioni e così via. Ed ecco quindi che il fossato tra senso comune, il percepito, e il buon senso diventa sempre più ampio, e questo descrive, lo dico io, non lo dicono loro, il successo poi del populismo in politica, di chi crea il senso comune artatamente, manipolando in buona fede, se non ne sa un cacchio di statistiche e criteri quantitativi, in malafede se ne sa e decide di metterseli sotto i piedi, crea artatamente il senso comune, e alla fine il paese diventa poi in preda a fumi contrapposti. Ecco, questa è la mia sintesi generale, che sicuramente tradisce il libro dei due autori, che adesso vado a presentarvi, perché gli autori di questo libro, ripeto, titolo Cose da non credere, Il senso comune alla prova dei numeri, La Terza è l'editore, sono Guglielmo Weber, che è professore di econometria ed è direttore della scuola di dottorato in economia e management presso l'Università di Padova. Buongiorno al professor Weber. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Che ci tiene a dire alle conclusioni del libro che non è parente di Max Weber, insomma, non basta avere lo stesso cognome. Confermo. Esatto. E poi il professor Giampiero Dalla Zuanna, che insegna demografia ed è preside della Facoltà di Scienze Statistiche all'Università di Padova. Buongiorno, professor Dalla Zuanna. Buongiorno anche da parte mia. Allora, io inizierei, prima di entrare, abbiamo scelto almeno quattro quattro fuochi tematici, cioè quello della famiglia e dei bamboccioni per essere chiari, poi quello del mattone, poi quello delle pensioni, poi quello degli immigrati. Però io inizierei dalle conclusioni, in realtà, per far capire a chi a casa, prima di fare esempi concreti, quali sono le conclusioni a cui il libro porta, e porta la vostra esperienza, insomma, pluriennale di gente che tenta di guardare ai fenomeni numeri alla mano prima di formare le vostre opinioni, di contribuire a formare, a formare le altre. Allora, per le conclusioni, chi è che ce le illustra dei due? Ma volentieri posso dire qualcosa io, sono Weber. Eccoci. Perché, diciamo, questo della distinzione fra il senso comune e il buon senso, che è una distinzione manzoniana, ci è sembrata particolarmente adatta a rappresentare una situazione in cui da un lato c'è una credenza diffusa in realtà non necessariamente vera, era il caso degli untori nella peste manzoniana, e dall'altro c'è il buon senso che utilizzando i dati e utilizzando il ragionamento raggiunge conclusioni opposte, ma spesso non ha il coraggio di parlare. Ora, questa è un po' la situazione che si crea spesso nelle democrazie anche in particolare in Italia, come lei diceva giustamente, un dibattito politico in cui fino a qualche mese fa in particolare le conoscenze dei dati e delle analisi corrispondenti erano, se c'erano, ben tenute nascoste. Noi citiamo anche una frase di Max Weber sul fatto che la burocrazia tende a tenere nascoste le fonti di informazioni perché ci tiene a poter avere un potere che deriva da questo trattenere le informazioni. Ebbene, in una democrazia che funziona, una democrazia quindi moderna e informata, le informazioni devono essere messe a disposizione tempestivamente, in maniera completa, in modo che chi fa le politiche, ma anche chi non le fa, e cioè in particolare chi vuole poter dire la sua in maniera ragionata e informata, le abbia a disposizione. Noi facciamo l'esempio di un istituto inglese che si chiama l'Institute for Fiscal Studies, IFS, il quale da tantissimi anni fa ogni anno delle proposte di politiche economiche, alcune delle quali vengono adottate, altre no, dal governo britannico, ma che sono sulla base di informazioni molto dettagliate che derivano da aver avuto i dati in modo tempestivo e completo. E questo è un istituto indipendente. Io onestamente faccio fatica a trovare un altro istituto simile nel quadro italiano, perché c'è chi ci prova, voglio dire, citiamo anche il sito della Voce, lavoce.info, che cerca di fare questa analisi, ma spesso e volentieri con gli economisti che ci lavorano non entrano nel fatto che i dati arrivano molto in ritardo e arrivano molto parziali, e quindi chi fa le politiche, in questo caso il governo, il Ministero dell'Economia e della Finanza, ha un enorme vantaggio di tempo e di modo, e quindi può tranquillamente, diciamo, è molto difficile criticarlo in maniera corretta e completa. E noi cerchiamo di dare tanti piccoli esempi, a partire da una importantissima cambiamento epocale del nostro paese, che è quella che noi chiamiamo la New Vital Revolution, cioè la rivoluzione demografica e anche delle vite delle persone, perché questo grande allungamento della vita che abbiamo, questa riduzione della fecondità, comporta dei cambiamenti sociali attraverso anche l'immigrazione, che sono cambiamenti enormi, in cui il senso comune, cioè l'abitudine a pensare che abbiamo da una società, deve essere modificato per forza. Bisogna che il nostro modo di percepire rifletta questi cambiamenti epocali. In questo libro cerchiamo di vedere come questi cambiamenti epocali, con l'aiuto dei dati, poi veramente ci conducano a una nuova visione delle cose, quindi a partire ad esempio dalle questioni che ha menzionato e di cui parleremo questa mattina, ma lo stesso allungamento della vita lavorativa che adesso il governo è stato, diciamo, indotto a mettere in atto, è un cambiamento epocale che ben si sposa con le analisi che noi abbiamo portato sulla base dei dati e sulla base di questa grande rivoluzione in senso ovviamente proprio, cioè il cambiamento epocale che si sta svolgendo nel nostro paese. A proposito della disponibilità di dati di contabilità nazionale o di rilevazione del mercato del lavoro, spesso anche noi abbiamo fatto esempi, come non considerare che da molti decenni, per esempio, i dati degli application, delle richieste per la disoccupazione negli Stati Uniti ogni venerdì, che Dio manda in terra, relativi alla settimana, sono noti a tutti gli operatori del mercato, vengono rilasciati dal Dipartimento del Lavoro e del Commercio. Noi andavamo avanti su basi trimestrali del trimestre precedente. L'Istat, da qualche tempo a questa parte, soprattutto da quando c'è il professor Giannini alla testa e alla disperata ricerca di ottimizzazioni e di abbattimenti dei tempi, ma molto molto molto resta ancora da fare, e io personalmente mi sono anche molto rammaricato del fatto che, sia in occasione della consegna dei questionari a tutti gli italiani per il censimento, sia ultimamente, la settimana scorsa, in occasione della vicenda della commissione guidata dal professor Giovannini per avere la comparazione, lo scudo che ha usato la politica per non dire la verità sui soldi che prende, in entrambi i casi la politica non si è peritata di buttare discredito contro l'Istat e contro Giovannini, che io invece personalmente difendo. Io credo che per gente come Giovannini, che dall'esperienza internazionale tornata nel nostro paese a dare efficienza all'Istat, dovrebbe essere difesa da tutti, perché i numeri a disposizione di tutto e ben elaborati sono secondo me un patrimonio di tutti, al di là poi della libertà delle opinioni. Altro esempio che faccio sempre, visto che ci intossichiamo anche con l'evasione fiscale, l'algoritmo in base al quale dagli anni 90 l'Istat elabora la stima annuale dell'economia in nero e la comprende nel denominatore PIL, su cui siamo abituati a fare tutte le frazioni, dal deficit al debito pubblico, evasione compresa, è un algoritmo che a me tecnicamente non ha mai convinto e che non è condiviso dal più degli istituti statistici nazionali, eppure noi siamo abituati a considerare come parola di verità quella stima iper approssimativa dell'economia in nero italiano, che guarda caso è sempre la stessa percentuale ogni anno e non evolve nel tempo. Come è possibile che sia così? Ecco, sono tanti esempi di come intorno ai dati Banca d'Italia, che resta un presidio forte dal punto di vista tecnico, Istat e così via, noi dovremmo tutti mobilitarci perché risorse e personalità di primo rilievo abbiano lo spazio che non hanno nella società italiana. Cominciamo allora, per così dire, dalla demografia. C'è una tabellina, ce n'è una sola nel libro, ma molto chiara nel far vedere com'è cambiata l'Italia tra 1976-80 da una parte e il 2006-2010 dall'altra parte. Io uso, professor Dalla Zuanna, solo l'esempio dei bamboccioni, ma per consentire a lei di articolare in qualche minuto un po' di considerazioni sulla distanza tra buonsenso e senso comune nella percezione della famiglia, perché c'è un punto che a me ha fatto morire dal risate pensando agli studenti che conosco a proposito della famosa vicenda dei bamboccioni e delle polemiche che ne uscirono fuori, ma insomma del fatto che gli italiani escono molto più tardi dalle famiglie di quanto capiti ai loro coetanei negli altri paesi occidentali, in cui dice capita solo in Italia perché giustamente non funziona il welfare, perché il mercato del lavoro è spaccato in due, eccetera. Ma se fosse vero solo questo, perché poi nelle ricerche fatte in altri paesi avanzati, dove invece il welfare è diverso, il mercato del lavoro funziona e così via, nelle comunità immigrate comunque gli italiani escono dalle loro famiglie molti molti anni dopo rispetto alle loro coetanee in quei paesi dove tutto funziona, e lì mi sono messo effettivamente un po' a ridere. Sì, ecco, il discorso, se posso permettermi, il discorso legato ai dati è particolarmente importante quando si parla della famiglia, perché ovviamente ognuno di noi ha la sua esperienza familiare, vede le cose nella sua famiglia, nelle famiglie intorno a sé, e tende a farla diventare regola generale. Ecco, quindi è particolarmente difficile da parte nostra riuscire a dire qualcosa su questo che venga accettato tranquillamente, mentre se fossimo, che so io, studiosi degli insetti, tutti accetterebbero quello che diciamo, no? Quindi c'è un'ulteriore difficoltà. E poi c'è anche una difficoltà che voi documentate, che deriva dal fatto che noi siamo abituati, avendo per così dire considerato la famiglia estesa come tradizionale della storia italiana, e invece lì voi documentate no, era una ricerca che prendeva le famiglie di una parte d'Italia, che però trascurava il fatto che già allora la famiglia mononucleare era una famiglia molto più diffusa di quanto si credesse. Guarda, guardi, adesso noi stiamo per buttare fuori un articolo sull'Italia del 400 che mostra come la famiglia nucleare nella zona di Varese era già prevalente, mentre nella zona toscana c'erano tutte famiglie allargate, quindi già all'inizio del 400 c'erano differenze. L'Italia è sempre stato un paese non paese per certi versi, no? Cioè frutto dell'unione della diversità. Comunque, al di là di questo, con riferimento ai bamboccioni, perché sennò dopo ci dicono che non entriamo a parlare del merito, c'è una cosa molto interessante che è stata messa in evidenza dagli studiosi negli ultimi 20 anni, studiosi di famiglia, antropologi, sociologi e anche demografi, che è questa. L'Europa non è unica con riferimento ai legami fra le persone, c'è una differenza molto forte fra l'Europa del nord e l'Europa del sud. Si può dire proprio che sia un confine che passa da un lato per i Carpazi, poi per le Alpi e poi sui Pirenei. A sud di questa linea, chiamiamola immaginaria, i legami di sangue fra le persone sono molto forti e permangono per tutta la vita, mentre a nord di questa linea immaginaria tendono ad allentarsi verso i 19-20 anni, quando i ragazzi escono di casa, non solo escono adesso, ma uscivano anche nel passato, nei secoli passati. È quello che gli storici chiamano la circolazione dei servi, cioè queste persone uscivano di casa molto giovani, andavano a lavorare in altre fattorie, e questo era visto come un elemento fondamentale dell'educazione, non solo nelle classi, diciamo, agiate, ma anche nelle classi popolari. Difatti io dico sempre ai miei studenti, per scherzare, che la favola dei tre porcellini non era pensabile in Italia, no? Cioè, perché mai i porcellini dovevano lasciare la casa della mamma, no? Non c'era nessun motivo. Ecco, questa cosa, a parte le battute che si possono fare su questo, facili battute anche, fa sì che ancora oggi in Italia una delle regole fondamentali nella vita delle persone è cercare di stare vicino ai propri parenti di sangue, vicino ai genitori e anche vicino ai fratelli, se possibile. Quindi vediamo che questa regola non scritta, no? Che però porta delle obbligazioni anche scritte, per esempio in Italia rispetto ad altri paesi c'è un obbligo di assistenza dei consanguinei anziani molto più spinto, mi pare che arrivi fino alla terza generazione, a cose di questo tipo, una cosa che non è in altri paesi. Allora, tutte queste cose insieme fanno sì che è impossibile anche pensare a un welfare per l'Italia senza considerare queste regole, che gli antropologi chiamano proprio regole di base, no? Nella decisione della vita delle persone. Ecco, per esempio con la storia dei bamboccioni, se si va a vedere, ci si accorge che stanno di più in casa, stanno più a lungo in casa i figli delle famiglie abbienti, non delle famiglie più povere. E questo vuol dire che la famiglia è vista come una risorsa, non come un vincolo, anche dai giovani. Tanto più che adesso ci si sono rilassati alcuni comportamenti autoritari dei genitori, che per esempio non permettevano ai giovani di incontrare il fidanzato all'interno della casa o cose di questo tipo. Adesso queste cose sono sempre meno diffuse e questo fa sì che i ragazzi possano costruire il loro capitale umano, chiamiamolo così, e capitale sociale all'interno della famiglia. Il risvolto negativo, diciamo, di questo lo si vede bene in uno studio dei professori Tabellini e Billari della Bocconi, che mostrano come in realtà i ragazzi che stanno più tempo in casa dopo negli anni successivi tendono ad accumulare meno reddito degli altri, cioè sembrerebbe che uscire prima accelera la produzione di reddito e di ricchezza da parte delle persone. Ecco, questo quindi il problema dei bamboccioni è abbastanza complesso e non va derubricato semplicemente in vincolo all'uscita dovuto alla mancanza di un mercato degli affitti. Nell'esempio che facciamo noi, a Melbourne gli italiani escono 3-4 anni dopo, no? come ricordava lei, i loro coetanei australiani o inglesi escono di casa pur avendo lo stesso mercato degli affitti dei loro coetanei di altra provenienza. Io devo dire che userò il capitolo con mia moglie, perché siccome siamo molto divisi su come bisogna trattare i figli, io sono dell'idea dei calci nel di dietro quando sono molto piccoli per formarsi, e lei è dell'idea, che sono naturalmente un antifamilista di impianto runico, come dicevo, cioè uso le rune, cioè sono un nord-europea tendenzialmente nazista, brutto un bot, ma non credo che sia così, però userò molto questo capitolo per tentare di convincere le mamme italiane a abbassare gli artigli dai loro figli, perché come vedete meno rapidamente escono dal vostro controllo e meno reddito produrranno, non tutti, ma insomma è una generalizzazione, ma ha un suo fondamento a quanto pare statistico. Eccoci tornati in studio, sono con noi il professor Guglielmo Weber e Giampiero Dalla Zuanna, stiamo parlando del loro libro recentissimo appena uscito per Tipi di La Terza, il titolo è Cose da non credere, il senso comune alla prova dei numeri. Tema del libro, molti esempi per approfondire come senso comune, cioè percezione da parte dei italiani, e buon senso, cioè ragionevole conclusioni e politiche da una cognizione dei dati reali in base a numeri affidabili, siano molto spesso separati tra loro. Buon senso si nasconde di fronte al senso comune, come diceva Manzoni. Abbiamo visto uno dei temi, quello della famiglia e dei giovani. C'è un capitolo successivo a quello in cui si affronta il tema importantissimo, vista la nostra curva demografica, del sostegno alle famiglie con più figli per sostenere la fecondità, ed è anche quello un capitolo che vi consiglio di leggere perché parte da una banale domanda: siete favorevoli al sostegno delle famiglie con più figli? Rispondereste, come in ogni sondaggio, a stragrandissima maggioranza sì, ma se vi facessimo la domanda siete favorevoli a penalizzare le famiglie con meno figli, rispondereste con maggioranza quasi altrettanto grandissima anche a questa seconda domanda sì. Dal che voi capite bene che l'equazione di come si ricavano le risorse per soddisfare la condizione A vista la condizione B non è molto facile nella democrazia italiana, e la risposta che danno il professor Weber e Dalla Zuanna è la risposta che condivido anch'io, cioè welfare di prossimità, sussidiarietà, Tagesmutter alla tedesca, però attenzione perché quelle potrebbero essere soluzioni che costano molto, ma approfondite e leggete. Io vorrei usare un altro dei temi che invece Weber e Dalla Zuanna sollevano, perché è un altro dei temi molto vivi nel dibattito italiano dopo la riforma delle pensioni con il contributivo pro rata e il rapido innalzamento dei tetti oramai omologati dei trattamenti di vecchiaia e di anzianità che dobbiamo al governo attuale. Nel capitolo sulle pensioni anche qui si parte da il senso comune percepito che abbiamo visto alimentarsi e arroventarsi nel dibattito italiano, del tipo ci vogliono tenere tutti in pensione prima di mandarci in pensione al lavoro in un'età improbabile, tanto poi la forza fisica per fare i lavori non c'è, soprattutto non c'è il lavoro, ma di che state parlando? È una cosa che non sta né in cielo né in terra. E invece in questo capitolo si documenta come, tra l'altro, chi va in pensione prima debilita le sue funzioni cognitive più rapidamente di chi continua a lavorare. Allora, intorno a questa separazione tra senso comune e buon senso sul tema dell'età pensionabile, che cosa si può tentare di fare perché gli italiani siano un po' più freddi nell'analizzare positivamente quello che sta avvenendo? Chi risponde tra Weber e Dalla Zuanna? Rispondere io, sono Weber. Sì. Guardi, questa è un'ottima domanda perché in effetti quello che mostriamo a questo capitolo è che in particolare nei paesi del sud Europa ci sono proporzioni molto elevate di persone che dicono di voler andare in pensione appena possibile. Ma in altri studi che abbiamo fatto abbiamo scoperto due cose. La prima cosa è che proprio in quegli stessi paesi, prima uno è andato in pensione, prima è più probabile che quando diventa anziano vero, cioè ottantenne, sia in difficoltà finanziarie. Quindi andare in pensione presto fa male al portafoglio, alla lunga uno si trova in difficoltà. E malgrado che il sistema pensionistico fosse tutt'altro che era un sistema pensionistico, quello che potevamo godere, piuttosto generoso, apparentemente generoso. L'altro elemento che citava lei è che una serie di studi mostrano che c'è un rischio di pensionamento mentale, cioè che andando in pensione uno smette di essere stimolato sia sul piano delle cose che deve fare con la testa, sia delle interazioni sociali, che ha un decadimento cognitivo molto più rapido di chi va in pensione più tardi, e questo anche a parità di lavoro, cioè certo ci può essere chi andando in pensione scopre un mondo di cose bellissime da fare, si tiene molto attivo e più che compensa, ma mediamente a parità di lavoro andare in pensione più tardi fa bene alla testa, perché la testa invecchia meno rapidamente, avendo tenuto conto del fatto che il pensionamento non è un fatto casuale, quindi abbiamo tenuto conto che, diciamo, tenendo conto delle condizioni di contorno che possono essere la salute pregressa e così via. Ebbene, questo tipo di, cioè da un lato abbiamo un'evidenza che ci dice fa bene andare in pensione il più tardi possibile, chi è così fortunato da star bene che vada in pensione il più tardi possibile, dall'altro queste montagne di lavoratori che dicono appena possibile voglio uscire, allora in parte questo può essere dovuto ad esempio al desiderio di aiutare i figli. In Italia la liquidazione spesso è utilizzata, in un caso su quattro, c'è un rapporto causale in questo caso, si può dimostrare che un caso su quattro andare il pensionamento del genitore provoca la famosa uscita del bamboccione, perché il genitore evidentemente aiuta il bamboccione a comprarsi casa. Questa è una possibilità, ma non può spiegare in Spagna, in Grecia dove non c'è liquidazione, quindi non è questo il vero motivo. Il vero motivo evidentemente deve avere a che fare con qualcos'altro, e lì si guarda, ci sono dei dati che abbiamo raccolto, che si un'indagine che si chiama Ultra 50 anni in Europa, l'indagine Share, in cui si vede che in realtà in questi stessi paesi in cui si può andare in pensione molto presto, sono i paesi in cui la qualità del lavoro percepito da parte dei lavoratori anziani è particolarmente bassa, i lavoratori si lamentano della scarsa autonomia, si lamentano non tanto della fatica fisica, ma dello stress, delle mancanze di riconoscimenti, delle mancanze di possibilità di fare le cose come dicono loro, e anche talvolta lo stipendio non sufficiente. Ora, in questo contesto la domanda è: ma perché c'è questo problema? E una interessante risposta che viene fuori da altri studi che sono stati fatti nel frattempo è che i paesi che favorivano o favoriscono andare in pensione presto, che quindi consentono le pensioni, sono anche paesi in cui i datori lavorano meno convenienza a investire in formazione e a creare o adattare il posto di lavoro a una forza lavoro anziana. Quindi in questi paesi i lavoratori anziani si trovano, lavoratori anziani devo dire non ottantenni, stiamo parlando di 55enni, 60enni, si trovano in un contesto in cui nulla è fatto per tenere conto delle loro specificità, si fa sentire ormai vecchi e inutili, e questi naturalmente dicono prima vado in pensione più sono contento, mi occupo dei nipoti, faccio le mie cose, magari guardo un po' più di televisione o ascolto un po' più programmi radio, ma la verità vera è che è un contesto perverso in cui la legislazione che favorisce andare in pensione presto, induce ad andare in pensione presto sia perché gli fa credere che convenga economicamente e alla lunga non è vero, perché deprezzano, non perdono la capacità di guadagno che e una capacità di produrre che avevano, e l'altra cosa induce ad andare presto perché i datori di lavoro non hanno avuto incentivi a sfruttare le loro competenze e non hanno avuto incentivi a creare un contesto in cui possono lavorare bene e produttivamente. Ovviamente è chiaro, gli studi che abbiamo ci dicono che la produttività ha un picco verso i 50 anni e poi decresce, ma non tanto, quindi è possibile ed è utile mantenere i lavoratori anziani attivi, però bisogna anche adattare, bisogna creare un contesto che gli permette di lavorare bene, molto spesso integrando giovani e anziani assieme. E qui infatti l'altra questione fondamentale è che non è assolutamente vero che a mandare le persone in pensione presto si creano posti di lavoro. Questa è una visione, esatto, diciamo, da pianta organica che esiste nell'economia. No, questa è fortissima questa convinzione, però. Ecco, smentire ragionando, non trattando la gente che dice non è vero come se fossero dei sommari, ma smentire ragionando, dati alla mano, cioè spiegando come funzionano le imprese e i mercati del lavoro, la convinzione per la quale la protrazione dell'età lavorativa leva posti di lavoro perché basterebbe automaticamente prepensionare per avere lavoro per i giovani, è uno dei punti di fondo per affrontare più sensatamente il ragionamento. Cioè questo che lei stava dicendo e che secondo me, a me piace molto la conclusione del vostro capitolo, perché è una conclusione che dice per lavorare tutti di più bisogna lavorare meglio. Ecco, forse secondo me, e se capisco capisco bene lo spirito della conclusione del vostro capitolo, quello che è mancato nel dibattito pubblico e nella necessità di dover fare il cambio di marcia sull'età previdenziale è stata la spiegazione ragionevole e pacata del fatto che bisogna concepire le modalità dell'organizzazione del lavoro, perché lavorare meglio significa integrare meglio fin dall'inizio nei lavori, per le diverse qualifiche e per le diverse propensioni alla produttività, per diversa fascia di età, i giovani lavoratori con quelli il cui ciclo vitale comunque si allunga e il cui ciclo lavorativo si allunga, perché così lavorando meglio tutti lavoreremo di più ed è necessario che sia questo. Ma a parte chi pensa che poi lavorare meno sia la vera conquista della modernità, e allora lì io no, mi arrendo, per così dire. C'è una telefonata di Stefano dalla provincia di Roma. Prego Stefano. Stefano in linea? Pronto? Sì, dica Stefano. Io non mi chiamo Stefano. Ah, non si chiama Stefano. E allora, come si chiama? Vincenzo. Vincenzo, perdono Vincenzo, mi avevano segnalato la sua telefonata con il nome di Stefano. Vincenzo, dica. Io praticamente sento sempre parlare che in Italia non ci sono poche nascite. Io non ho capito che in questo paese, che non è un grande paese territorialmente, perché una popolazione di 30-40 milioni, come era nel 30 praticamente, non ci può stare, ci sta meglio, ci sta più comoda, dobbiamo essere invasi dai stranieri perché devono fare i figli, cioè è una falsa praticamente, oppure fa comodo a qualcuno, a qualcuno. Allora, diciamo, rilancia un tema malthusiano di quelli che il professor Sartori sul Corriere della Sera spesso riapplica al pianeta intero: siamo troppi, si stava meglio in realtà quando eravamo meno, per così dire. I troppi che arrivano, gli immigrati che fanno, sono quelli che poi alzano la componente demografica in Italia, sono quelli che poi ci fanno concorrenza interna e così stiamo peggio. E vale in Italia, ma vale in realtà nel mondo intero. E mentre riparte ovviamente The End dei Doors, allora l'interrogativo del nostro ascoltatore Vincenzo, non Stefano da Roma, ci porta al tema dell'immigrazione. Sì, era legato alla seconda età, ma dell'immigrazione e del problema Sartori, chiamiamolo così. Siamo troppi o non siamo troppi? Professor Dalla Zuanna, come si risponde a questo tipo di obiezione? Sì, per rispondere c'è bisogno, proviamo a dire qualcosa in pochi secondi. Allora, è questo: nessuno, ci hanno provato molti demografi, ma nessuno è mai riuscito a capire qual è l'ottimo di popolazione, no? È molto difficile dire qual è il numero giusto di persone che devono abitare in un certo posto. Naturalmente dipende moltissimo dalle condizioni naturali, dipende moltissimo dall'organizzazione sociale e così via. Quello che si può dire è andare a vedere con i dati, con i fatti, quello che succede. Nel nostro libro noi mostriamo, mettendo in campo dei dati anche molto recenti, che la previsione del Club di Roma, no? Quella dell'inizio degli anni 60, in cui dicevano che la Terra non sarebbe stata in grado nel medio breve periodo di sostenere i suoi abitanti, si è rivelata infondata, perché nel corso degli ultimi 200 anni le risorse sono cresciute più rapidamente della popolazione, ove per risorse intendiamo proprio le risorse materiali, cibo in particolare. Allora, questo smentisce, se vogliamo, le previsioni infauste che erano state fatte, perché molto spesso queste previsioni sono fatte senza tener conto che negli ultimi 200 anni, proprio da quando Malthus ha scritto il suo libro, che ha scritto all'inizio dell'Ottocento, negli ultimi 200 anni proprio le condizioni di base del modello malthusiano non si sono verificate. In altre parole, è un problema di produttività. È un problema di produttività, cioè la produttività del cibo, delle risorse, è stata superiore alla crescita pur rapida della popolazione. Dall'inizio dell'Ottocento eravamo 1 miliardo, adesso siamo 7 miliardi, noi siamo aumentati di 7 volte, ma le risorse sono aumentate molto di più, per cui se andiamo a vedere adesso, anche se la distribuzione della ricchezza non è cambiata molto dai tempi di Malthus, però la disponibilità di risorse medie nel mondo sono molto aumentate. Difatti noi restiamo colpiti naturalmente per esempio dalle carestie attuali del Corno d'Africa o cose del genere, però le carestie sono diminuite moltissimo nel corso degli ultimi 200 anni, il numero di carestie, e la loro causa non è mai malthusiana ultimamente, cioè non è mai causata dall'eccessivo numero di persone, ma è causata dalla cattiva distribuzione del cibo e dall'incapacità di gestire, no, le scorte. Allora, questo, venendo al caso italiano, il caso italiano è un elemento, è un caso particolare di questi grandi cambiamenti a livello internazionale. L'Italia adesso ha 60 milioni di persone, ne aveva 30 milioni al momento dell'unità, quindi 150 anni fa. Ne avrebbe molti di più se non ci fossero state le grandi emigrazioni, no, della prima metà del Novecento e della seconda metà dell'Ottocento, ma ora l'Italia riesce tranquillamente a gestire 60 milioni di persone nel suo territorio, non è che ci siano problemi su questo. Il problema, dopodiché sentiamo le notizie sul traffico e ci viene qualche dubbio, no? Quello che abbiamo appena sentito su Milano intasata e cose di questo genere. Ma al di là di quello, insomma, si può dimostrare facilmente che il problema dell'Italia non è quello della crescita della popolazione. La popolazione italiana continua a crescere perché e continuerà anche a crescere probabilmente nei prossimi anni, sempre che non abbiamo dei rovesci economici, che nessuno si augura naturalmente, perché la differenza di reddito e di ricchezza con i paesi vicini, in particolare del sud del mondo, è così alta che porterà ad attrarre persone che arrivano. Allora, pensare che questo porti alla rovina del paese è smentito proprio da quello che accade. Infatti ancora adesso le zone del paese che hanno attratto più immigrati sono anche quelle più dinamiche, che crescono più rapidamente, eccetera. È il discorso che faceva anche lei prima con riferimento agli anziani, cioè il problema è creare lavoro. Quando si crea lavoro, quando si crea ricchezza, c'è spazio per tutti. Quando non si crea lavoro, quando non si crea ricchezza, allora i fantasmi malthusiani tornano a farsi vivi e ovviamente anche quello che ha detto Vincenzo, l'ascoltatore, comincia a un suo fondamento di realtà. È proprio l'incapacità di crescere da parte sia dal punto di vista dell'economia ma anche dal punto di vista della società, e con questo libro cerchiamo di dare un contributo a questa crescita per quello che è possibile per due studiosi che stanno nelle loro case, no? Dietro il tavolino, però quando si comincia a crescere allora c'è spazio per tutti e la società ha in sé la forza di articolare, la società moderna, contemporanea, di non cadere nelle tenaglie di Malthus. Professor Weber, faccio a lei la domanda finale, ma è come se la rivolgessi anche a Della Zuanna. Molti ascoltatori adesso stanno dicendo la stessa cosa che mi aspettavo, purtroppo, che temevo. Ah, i professori chiusi nei loro studi, con i loro numeri che ci dicono che dobbiamo lavorare di più, che dobbiamo dire aprire la porta agli immigrati, che dobbiamo... Ah, i professori, siete come Monti. Perché, nella sua esperienza, a 30 secondi, professor Weber, i professori sono così invisi al più degli italiani? La colpa è vostra, evidentemente. Certamente, certamente sì, perché abbiamo, complessivamente parlando, un atteggiamento evidentemente troppo spocchioso. Quindi, diciamo, il nostro libro è un tentativo di mostrare che possiamo anche non nasconderci dietro i paroloni e cerchiamo di parlare chiaro e di spiegare. È chiaro che i professori in generale in Italia hanno storicamente preso un atteggiamento, diciamo, di supponenza, di sufficienza, e forse questo lo paghiamo adesso. Devo anche dire che uno degli aspetti importanti di un paese che è cresciuto come l'Italia è l'incremento della scolarizzazione, l'incremento dell'istruzione, e tutto questo dovrebbe rendere il dibattito, la capacità di trasferire conoscenze anche in questa forma tanto più di successo, tanto più efficace. Quindi speriamo che questo libro contribuisca a sanare il gap. Grazie al professor Guglielmo Weber, grazie al professor Giampiero Della Zuanna. Il libro è Cose da non credere, nel senso comune alla prova dei numeri. Io sono per buoni professori distinti dai cattivi professori, buoni studenti cattivi distinti dai buoni studenti. Insomma, si stangano entrambi, la selezione e il merito. Viva questo, è un'illusione? Non credo, e spero che questa Italia sia un passo avanti verso le chiacchiere infondate della demagogia della politica. Ricordate il professor Adolf Wagner, fine 800, quello che dice che...